E se il coronavirus fosse un'arma di politica estera, non nelle mani di Pechino? Iowa, si aprono le danze. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. All of those things that build out civil society inside of countries are things we're deeply committed to. We're here to help, and we'll continue to do that. It's down to the wire in Iowa. The presidential candidates are making their final pitches today ahead of Monday's caucuses. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. 16:08 in questo esatto istante, buon lunedì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo: Antonio Tali, Lara Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi in console. (349) 238 6666 per domande e commenti. Su che cosa? Sui due temi che affronteremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Faremo una circumnavigazione del globo a tutti gli effetti, perché andremo in Asia per parlare ancora del coronavirus e di come stia impattando sulle relazioni internazionali, e poi gioco forza si va in Iowa perché sono ore decisive per un piccolo stato che sostanzialmente apre le danze. La lunga rincorsa, la lunga cavalcata fino a novembre 2020 inizia la sua fase più calda, se volete, inizia proprio tra pochissime ore. Potete commentare al 349-238-6666, ma anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E come ogni lunedì andiamo a misurare la temperatura. Il primo dossier che cattura la nostra attenzione evidentemente è l'attentato di Londra. Non è stato il primo, speriamo sia l'ultimo, ma è evidente che il governo britannico, reduce dai postumi della sbornia di gioia, almeno per una parte evidentemente dei britannici, per la buona riuscita della Brexit, ha un problema, e ha un problema di gestione del terrorismo. Quel terrorismo che ha cambiato volto, che in passato ha toccato Londra stessa, lo ricorderete, nel 2005. Una volta il terrorismo marchiato Al-Qaeda aveva comandi ben addestrati, attacchi mirati devastanti, poi con ISIS, con lo Stato Islamico, ha cambiato faccia, ha cambiato obiettivi. Le ultime strategie ci hanno consegnato, le cronache ci hanno consegnato, attacchi di lupi solitari, spesso con armi improvvisate nel senso che venivano utilizzate strumenti immediatamente disponibili, poteva essere un furgoncino, poteva essere un camion, un coltello rubato in un negozio. Cosa sta accadendo in Gran Bretagna e cosa sta facendo l'intelligence britannica per cercare di contrastare questo fenomeno? Fra l'altro, lo Stato Islamico poche ore fa ha rivendicato gli accoltellamenti appunto di ieri a Londra. Ricorderete anche il precedente, il London Bridge, l'attacco a London Bridge che vi abbiamo raccontato. Insomma, non è un fenomeno nuovo. È un problema che c'è da un po', ma è una nuova sfida per i servizi. Sentite il commento di Raffaello Pantucci, analista, dirige la sezione antiterrorismo del RUSI. Ascoltiamo. Con fronte alla sicurezza in controterrorismo nella Gran Bretagna, al momento siamo in un momento dove i servizi stanno confrontando un problema che è diventato complicato in un modo che loro stanno faticando a mantenere, a proteggere il popolo dalla quale. Hanno una situazione dove i vecchi gruppi esistono ancora, però da quello che sembra loro sono in grado a controllare gli attentati che loro stanno facendo. Quello invece che stanno affrontando, che è molto più complicato, è il fatto di persone che sono radicalizzate, che sono magari hanno fatto parte di qualche complotto o sono emersi in qualche materia o in qualche modo fra i gruppi di terroristi, però non sono necessariamente persone che hanno deciso di fare un grande attentato, che facevano magari parte di un grande gruppo, erano radicalizzati, però poi non hanno commesso un grande atto. Allora, quando sono stati catturati, sono stati messi in prigione e hanno passato un periodo abbastanza limitato di tempo in prigione. Al punto che sono liberati, il sistema inglese ha scoperto che c'è un buco, perché dove c'erano prima alcuni programmi che stavano provando a lavorare con queste persone per assicurarsi che erano deradicalizzati, che erano pronti di nuovo ad entrare nella società, questi programmi hanno calato un po' in numero, e anche la loro capacità di confrontare tutti i casi che hanno davanti è diventato molto meno. Questo vuol dire che stiamo vedendo una situazione dove alcune di queste persone stanno provando a commettere attentati. Il problema è che dopo che succede uno o due attentati, vediamo che tutti gli altri, c'è bisogno che i servizi ripassino tutti i vari vecchi casi. Allora questo vuol dire che sopra, al di là di dover già confrontare questo grande gruppo di persone radicalizzate che sono stati magari in Siria, alcuni che sono stati tornati, alcuni che sono stati incarcerati magari 10 o 20 anni fa per altri atti di terrorismo, che adesso sono liberi, devono essere ripassati e riguardati per vedere se loro sono persone che possono magari diventare futuri terroristi. C'è un buco, dice Raffaello Pantucci, analista, dirige la sezione antiterrorismo del Rusin, think tank britannico di lungo corso e di lunga data. Come ormai sta diventando questo problema quasi di lunga data? E attenzione, perché dal 2005, epoca di quell'attentato disastroso ai mezzi pubblici londinesi, il terrorismo ha cambiato non soltanto bandiera, brand per così dire, ma anche ha cambiato forme di attacco e di reclutamento. Però evidentemente Pantucci mette in luce quella che è una nevralgia da parte dei servizi segreti britannici. I numeri sono alti, ma questi programmi cui faceva riferimento l'analista funzionano nel lungo termine? Cioè riabilitare questi terroristi che, attenzione, come pena massima possono arrivare a 15-20 anni, quindi stiamo parlando di persone che potrebbero dopo un certo periodo tornare a essere a piede libero. Ascoltiamo. I numeri sono molto alti e, come ha detto giustamente, dopo l'attentato di Nuremberg hanno ripassato 74 casi, come ha detto, della quale la maggior parte hanno detto che le persone sono state scarcerate con buona ragione, il sistema che hanno intorno a loro è a posto. Allora hanno ripassato i casi, non hanno concluso, molti avevano fatto commesso altri problemi, alcuni, non mi ricordo il numero preciso, però era molto basso, sono stati rimandati in prigione, però un numero molto basso. Però il problema è che questo diventa un problema costante, ed è un problema che stiamo parlando di gente che è abbastanza giovane. Per esempio il ragazzo, quasi il giovane, che ha fatto l'attentato a Londra ieri, aveva 20 anni, lui è stato arrestato quando aveva 17 anni. E allora, se stiamo pensando a persone di questo genere, anche se lui viene incarcerato per magari il periodo massimo che uno potrebbe avere per un attentato terroristico, è intorno ai 15 anni, e se passasse tutto quel tempo in prigione, lui uscirebbe da prigione quando avrebbe ancora solo 30 qualcosa anni, che è abbastanza giovane. A quel punto la polizia deve ancora tenerlo d'occhio, perché questa è una persona che potrebbe ancora avere questa idea, che potrebbe ancora avere questo concetto. Allora questo vuol dire che è una cosa a lungo termine da mantenere. Il problema è che dall'altro lato il programma che hanno creato di riabilitazione o di radicalizzazione è una che non è che si ferma, è una che deve mantenere, e deve mantenere per anni quasi. Allora te devi cominciare a pagare per un programma che comincia adesso, da quando la persona esce in prigione, che quando ha, non so, 25 anni, e deve mantenerlo potenzialmente per altri 20 anni. E questo diventa una cosa molto costosa. Allora il calcolo dal punto di governativo è com'è che possiamo bilanciare questo programma, che da un lato è essenziale chiaramente, perché se no continuiamo a vedere questi attentati, però dall'altro lato diventa un costo molto pesante sulla società, che deve continuare a pagare per mantenere un livello di engagement con ognuno di queste varie persone, perché da quello che abbiamo visto dai gruppo di persone che hanno provato gli attentati in Inghilterra, vediamo persone che sono giovanissimo fino a persone che sono cinquantenni. E allora questo vuol dire che devi mantenere un servizio sociale quasi di riabilitazione su queste persone per un periodo lunghissimo, per assicurarti che il problema è maneggiato. La voce e l'analisi di Raffaello Pantucci da Londra, analista esperto di antiterrorismo del RUSI, dove dirige la divisione di questo think tank che si occupa proprio di terrorismo e antiterrorismo. Sostanzialmente cosa fa? Fotografa un difficile bilanciamento tra quelli che sono i costi per la sicurezza e la sicurezza stessa, il che dà il via ad alcuni ascoltatori che dicono pena di morte, così Roberto da Treviso, alludendo al fatto che per lo Stato, per il Regno Unito, è un costo nel lungo periodo. Cercare di deradicalizzare da un lato, reinserire nella società e allo stesso tempo pagare per tutte queste spese per cittadini che magari si sono addestrati in Siria o in Afghanistan o in altri teatri e poi hanno fatto ritorno sul suolo europeo. È un tema, è questo, abbiamo iniziato a parlarne da quando si è scatenata, tra poco ci vado in Siria, l'ultima offensiva su Idlib, da quando ci sono state le ultime dichiarazioni del presidente turco Erdogan su quella fascia di sicurezza e su quell'abbandono di sostegno degli Stati Uniti sui curdi che avrebbe aperto, per così dire, un bel po' di prigioni in territorio siriano con parecchi jihadisti che non si sa bene chi dovrebbe gestire, mentre Erdogan dice assolutamente devono tornare in Europa. C'è chi tuona al 349-238-6666, oggi il terrorismo è solo islamico. Adesso però fatemi fare una piccola menzione su Siria, perché sapete, l'ultima roccaforte, la città di Idlib, è presa d'assalto dalle truppe di Assad nelle ore scorse, durante un lancio fitto di razzi verso Idlib, sono stati uccisi anche 5 soldati turchi e un civile, un membro del personale civile che stava con quella compagnia di soldati turchi. Questa notizia ci arriva da Ankara stessa, la quale ha pochissime ore fa ribattuto altre agenzie, ha fatto sapere che ha risposto con violenza all'attacco da parte dell'esercito regolare siriano. Infine, ultima notizia del nostro termometro, ma non per questo meno importante, mentre avete sentito anche Enrico Pagliarini dal GR24, che i 5 più 5 si stanno trovando a Ginevra, sostanzialmente sono i 5 nominati da Sarraj e i 5 esperti militari nominati da Haftar che dovranno cercare un accordo. È inutile dire che, come dire, da parte nostra, dal nostro osservatorio, c'è un moderato pessimismo, stavo per dire ottimismo, ma in realtà è un moderato pessimismo su ciò che può scaturire da questo incontro. Però c'è per noi un tema ancora più importante. Benghazi ha 10 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 3 giorni di gasolio e 9 giorni di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, gasolio e GPL. E anche Sebha non ha capacità di stoccaggio della benzina e GPL e ha solo 7 giorni per il gasolio. E la diplomazia cosa fa? Prima di andare in Iowa c'è già un ascoltatore che sta scrivendo una lunga domanda e commento su questo importante primissimo appuntamento elettorale, fra l'altro con una sua liturgia proprio particolare, molto di persona, molto face to face, vis-à-vis, se le preferite, alla francese, per cui i candidati democratici, ma anche repubblicani, o i loro inviati speciali, diciamo, per questa strana forma di consenso elettorale, tra poco, nei giorni scorsi, hanno incontrato i vari elettori porta a porta, strada per strada. Tra poco ci saranno delle decisioni fatte anche appunto in maniera piuttosto folcloristica, ecco, in un'epoca di social media, di voto elettronico, si recupera il contatto fisico con gli elettori, con gli Stati Uniti che devono votarci. Prima però bisogna parlare di un tema che è estremamente collegato al coronavirus, anche se apparentemente è difficile trovare un primo collegamento. Per farlo bisogna viaggiare in Cina, ovviamente, bisogna andare in Pakistan e bisogna andare in Kazakistan. Perché? Perché vi ho citato due paesi nei quali la Belt and Road Initiative, cioè la, come è stata ribattezzata più prosaicamente, la nuova via della seta, quell'investimento pluriultra miliardario infrastrutturale, 5 corridoi terrestri e marittimi che promettono di rivoluzionare commercio e comunicazione in tutto il mondo, fortemente voluta da Xi Jinping, annunciata peraltro proprio in Kazakistan. Cosa è accaduto? Che sia in Pakistan che in Kazakistan gli effetti del coronavirus si sono fatti sentire anche sui cantieri proprio di questa Belt and Road Initiative. In particolare, secondo quanto riferisce il Nikkei Asian Review, il timore per la diffusione del virus ha fatto ritardare un po' di progetti relativi al China-Pakistan Economic Corridor a Lahore e nel Punjab meridionale, con un po' di ingegneri che sono stati sottoposti ai controlli di sicurezza. Parallelamente, in Kazakistan è stata chiusa nella parte kazaka un'area di libero scambio che si chiama area di libero scambio di Korgos. il nome completo sarebbe Korgos International Center of Cross Border and Cooperation, che è stata creata nel 2011 fra i due paesi di comune accordo per creare in buona sostanza un terreno favorevole poi alla Belt and Road Initiative. Perché vi diamo questi primi dati? Perché abbiamo la sensazione, e ce la confermerà tra pochissimo la voce del segretario di Stato statunitense, che gli Stati Uniti stiano cogliendo la palla al balzo e stiano, come dire, tentando di inquinare quel grandissimo progetto, cercando di fare un'opera di dissuasione rispetto alla potenza economica cinese, facendo anche appunto una visita di Stato. In buona sostanza, il coronavirus potrebbe avere effetti geopolitici enormi se utilizzati con spregiudicatezza da Mike Pompeo. Ho detto Mike Pompeo, sentiamo la sua voce. I also talked about the Trump administration's forthcoming Central Asia strategy, which puts your independence and prosperity at the core. Così in Kazakistan Mike Pompeo dice: la strategia di Trump mette la vostra indipendenza e la vostra prosperità al centro. Si sta chiudendo infatti in queste ore un mini tour di Pompeo in Europa orientale e in Asia centrale. Ha toccato Ucraina, Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan. Ma quella in Kazakistan è una tappa particolarmente importante perché probabilmente sapete che il paese è estremamente ricco di petrolio e gas. Peraltro, secondo quanto riporta il settimanale Time, Pompeo ha fatto pressioni particolarmente chiare sul Kazakistan, invitando le autorità kazake a essere caute su investimenti e influenza cinese. In buona sostanza, quello che starebbe cercando di fare l'amministrazione Trump prima del 2020, spostare l'ago della bilancia di quel nucleo di paesi importantissimi, ai più sconosciuti e in effetti anche abbastanza remoti ma importantissimi dell'Asia centrale, spostarli, dicevo, dall'influenza cinese a quella statunitense, e utilizzando anche la propaganda di questo coronavirus come nuova formidabile leva o arma, se preferite, nelle mani di Mike Pompeo. Partiamo però dalle misure economiche, attenzione, perché da un lato abbiamo una chiusura unilaterale di una parte del confine in Kazakistan, dall'altro abbiamo un ritardo ancora non quantificabile dei cantieri della Belt and Road Initiative. Siamo andati lì allora sul terreno, metaforicamente ovviamente. Abbiamo raggiunto Joanna Lillis, è una giornalista, è una freelance, scrive per l'Economist e il Guardian fra gli altri, sta ad Almaty in Kazakistan. Qual è l'impatto di queste misure sull'economia locale ma anche sulla popolazione? Ascoltiamo la sua voce. It's hard to put a figure on how much the economy might be losing from all of this. Al momento è difficile avere un'idea di quale potrebbe essere il danno economico. Il governo stesso non ha nemmeno cercato di fornire cifre in questo momento. Ovviamente le attività economiche a Korgos, nell'area di libero scambio che si trova al confine fra Kazakistan e Cina, dove c'è un'intensa attività commerciale, stanno perdendo soldi. Ma nessuno sa quanto ammontano queste perdite, o almeno nessuno le ha rese pubbliche. Anche il commercio in generale, che si svolge regolarmente fra Cina e Kazakistan, subirà delle conseguenze significative per la mancanza di mezzi di collegamento. Le persone non potranno viaggiare per incontrare i propri partner commerciali o spedire le merci. Tutto è congelato. Ma è impossibile sapere quanto costerà tutto questo. Il governo sta inviando aerei in Cina per evacuare i propri cittadini. Ci sono molti studenti kazaki in Cina. Tutto questo costerà molti soldi, ma nessuno riesce ancora a stimare il costo complessivo di tutta questa situazione. La voce di Joanna Lillis da Almaty, Kazakistan, scrive per il Guardian, per l'Economist, ci offre un punto di vista diverso e forse che ancora non conoscevamo sui risvolti di questo coronavirus. Lungi da noi evidentemente creare allarmismi, ma d'altra parte una trasmissione che si occupa di attualità internazionale vi deve anche dare conto di come cambino i rapporti di forza tra paesi per noi, ripeto, apparentemente lontani e sconosciuti, ma poi che scopriamo essere pieni di risorse e nel mirino degli Stati Uniti. E come ricorda giustamente un ascoltatore al 349 238 6666, non è solo questione energetica ma anche poter andare a mettere, e in alcuni casi è già così, magari le basi statunitensi e poter far decollare i propri jet. Torniamo all'obiettivo di quella visita di Mike Pompeo, ve lo ricordo, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan. Esattamente cosa è andato a fare? Sentite ancora Joanna Lillis. Certamente Durante il suo viaggio in Asia centrale, ieri in Kazakistan e oggi in Uzbekistan, il segretario di Stato americano Pompeo è stato molto diretto, in una sorta di avvertimento ai governi di questi due paesi riguardo il loro coinvolgimento con la Cina. Pompeo ha dichiarato ufficialmente che gli Stati Uniti supportano questi paesi nella loro volontà di fare affari con chi vogliono, ma ha anche mandato un avvertimento. Oggi, ad esempio, in Uzbekistan ha lanciato un avvertimento riguardo a quello che ha definito operazioni sponsorizzate dallo Stato. Ha veramente usato queste parole e ha detto che gli Stati Uniti invece faranno vere transazioni di mercato. Il messaggio che vuole far passare è molto chiaro, che il progetto della nuova Via della Seta è pericoloso. Attualmente in Kazakistan sono stati avviati progetti per un valore di 27 miliardi di dollari nell'ambito della nuova Via della Seta. E il Kazakistan è visto dalla Cina come un partner cruciale, perché rappresenta la via d'ingresso all'Europa, attraverso la Russia o la Turchia e il Caucaso. Per questo motivo Pompeo è stato molto chiaro su questo e si è spinto ancora oltre, sollevando la questione dei diritti umani degli appartenenti alla minoranza musulmana nel nord-ovest della Cina, che sono detenuti in campi di rieducazione. Ha anche incontrato i familiari di alcune di queste persone. Penso sia evidente che c'è stato un focus anticinese. Una spregiudicata, se volete, operazione di propaganda anticinese raffinata, se avete gusti diversi. Comunque fatto sta che anche sui social si vedono foto che ritraggono Mike Pompeo, il segretario di Stato, insomma il ministro degli esteri statunitense, ritratto con i familiari appunto di questi, alcune di queste persone imprigionate dal regime comunista di Pechino in questi campi. Ne abbiamo parlato ampiamente qui a Nessun Luogo è Lontano. Insomma è evidente che questa visita sta cogliendo la palla al balzo, un momento di fragilità per Pechino e su questo non ci piove, un momento di fragilità in termini di trasparenza, di economia. Avete sentito come hanno aperto le borse quest'oggi? Cerchiamo di fare il punto, lo facciamo con Giulia Sciorati, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Cina e Asia Centrale. Sciorati, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, la prima domanda sulla quale la solleciterei è: noi abbiamo una tesi forse un po' estrema, abbiamo sottolineato in apertura che il virus si è trasformato in un'arma, in una leva geopolitica formidabile. È d'accordo? Certo, non nelle mani della Cina, ma nelle mani, in questo caso, degli Stati Uniti. Beh, in realtà sì. Diciamo che gli Stati Uniti hanno preso la palla al balzo di questa fragilità cinese dovuta al coronavirus. Fragilità a tutto tondo, non soltanto economica, non soltanto ovviamente per le tantissimi casi di quasi più di 17.000 in questo momento, gli ultimi conteggi di persone malate, ma anche politica. Per cui sicuramente gli Stati Uniti hanno preso adesso la palla al balzo, hanno in questa visita di Stato in Asia centrale è sicuramente un modo per minare la presenza cinese sul territorio, che si è fatta con la Belt and Road sempre più prestante. Giulia Sciorati, analista di ISPI, esperta di Cina e Asia centrale, segue da vicino le vicende non solo economiche ma anche appunto più strettamente geopolitiche. C'è stata però una fase in cui i mercati, ma non solo, anche gli analisti hanno tirato il fiato dopo la fase 1, no? Si era chiusa quella guerra di dazi, adesso però sembra che vi siano nuove pressioni. Tra pochissimo le farò l'ultima domanda, perché da fuori e da non esperto di Cina mi sembra che la leadership cinese ne stia uscendo con le ossa un pochino rotte. Abbiamo detto borsa e finanza, andiamo a sentire come stanno andando i mercati e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Continuiamo a parlare di come Mike Pompeo, ma l'intera amministrazione statunitense, abbia colto la palla al balzo. Le fragilità del regime di Pechino messe in luce dal recente crisi del coronavirus hanno delle ripercussioni in Asia centrale. Così Mike Pompeo fa un breve viaggio e cerca in qualche modo di sedurre alcuni paesi, Kazakistan su tutti. Con Giulia Sciorati, analista di ISPI, esperta di Cina e Asia centrale, siamo alla domanda forse centrale di tutto ciò: perché questa operazione come dire, simpatia tra virgolette di Mike Pompeo in Asia centrale non potrebbe avvenire se il regime di Pechino non vivesse un momento di grande fragilità. Quanto è fragile adesso Xi Jinping e quanto può recuperare nel caso lei sia d'accordo che sia fragile? Beh, sicuramente Xi Jinping sta affrontando dei momenti difficili. Già la sua situazione dopo la chiusura del 2019, con una crescita economica molto rallentata, anche rispetto allo standard preimposto dal partito di una nuova normalità, quindi di un tasso di crescita annuale del 6,5%, non è stato raggiunto. Allo stesso modo le proteste di Hong Kong e allo stesso modo adesso questa grande epidemia di coronavirus, neanche 20 anni dopo la grande epidemia di SARS che aveva sconvolto la Cina. Sicuramente quindi Xi si trova ora ad affrontare una leadership e anche un'opinione pubblica che in qualche modo gli è, se non contraria, sicuramente si fa delle domande. Sì, sì. E quindi diciamo è un problema anche interno, però che si riflette all'estero. Resta da vedere come riuscirà a recuperare credibilità la leadership cinese e con quanta velocità vorrà farlo, perché sappiamo che quando prendono decisioni poi sono estremamente efficaci ed efficienti, no? Parlavamo di Via della Seta e naturalmente Giulia Sciorati, vedremo nelle prossime settimane se questi ritardi avranno un impatto più o meno pesante su questa gigantesca opera infrastrutturale. Ringrazio tantissimo Giulia Sciorati di ISPI per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Adesso giustamente Valeria Bernardi mi suggerisce che dobbiamo cambiare continente, dobbiamo in qualche modo, come dire, suggerirvi un sport molto noto. C'è una palla che è ovale, ahimè non è il rugby. Io oggi, questa settimana, questo weekend, casomai vi interessasse, ho seguito le Sei Nazioni e ho trovato un risvolto geopolitico sublime, perché l'Inghilterra, allora tutte le squadre del Regno Unito hanno perso praticamente contro squadre europee. Vi ho trovato una simpatica nemesi da parte dell'Europa, vabbè, ma questo faremo una puntata, geopolitica del rugby. Qua si parla di tutt'altro. La palla ovale si lancia dritto per dritto in avanti, si chiama Super Bowl. I'm free to hug my family. I'm free to start over. This is the greatest day of my life. I want to thank President Donald John Trump. Woo! Durante il Super Bowl, a suon di milioni e milioni di euro, soltanto due candidati alle presidenziali si sono concessi il lusso di acquistare uno spazio pubblicitario. Quello che avete sentito, sintetizzato da Valentina Ternullo, in realtà è appunto un breve estratto dello spot di Donald Trump. Entrambi, sia Trump che Bloomberg, i più danarosi effettivamente, hanno puntato, diremmo in altra epoca, ormai è vecchio, non si può più dire, hanno puntato sullo storytelling. Due storie di donne. Quella di Donald Trump racconta di una ingiustizia penale, quindi ingiustamente incarcerata a lungo, e poi una conclusione felice grazie appunto all'operato di Donald Trump. Quindi Donald Trump che punta sulla riforma del settore giustizia. Dall'altra parte, come risponde Michael Bloomberg? Sempre con una storia, sempre con una donna. Sentite. George started playing football when he was 4 years old. On a Friday morning, George was shot. George didn't survive. Lives are being lost every day. It is a national crisis. When I heard Michael is stepping into the ring, I thought, now we have a dog in the fight. La storia che vi ha raccontato questa donna, questa mamma, è una storia particolarmente tragica, drammatica, perché fra l'altro si allaccia, e qua insomma chi ha scritto gli spin doctor dei due candidati sono molto attenti, siamo al Super Bowl. E durante la pausa viene proposta la storia di un ragazzo che sognava di giocare al Super Bowl, sognava di arrivare all'NFL, non ce l'ha fatta perché da giovanissimo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Così Bloomberg, campagna non nuova la sua, decide di puntare tutto e, come dire, affrontare a muso duro anche la lobby delle armi negli Stati Uniti. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande, ce ne sono tantissime anche su Libia, il ruolo dell'Italia. Vediamo in chiusura se riesco a dare voce anche a queste osservazioni. Prima di andare negli Stati Uniti con Riccardo Barlam, che è già in attesa, anzi lo saluto, via. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Ti faccio Super sentire... È una roba terribile, qui è un attentato calorico praticamente. Sì, no, infatti. Prima di darti voce e farci raccontare dove sei innanzitutto, perché non sei in Iowa, hai deciso di fare un percorso un po' differente, ti faccio sentire la voce di Arianna Farinelli, una politologa, insegna al Baruch College della City University of New York. È fresca di pubblicazione di un romanzo edito da Bompiani, gotico americano. È una storia di fiction, ma che ci aiuta tantissimo a capire l'America. Qualche giorno fa è stata qua in nostra compagnia, l'abbiamo solleticata su un po' di temi. Il primo: qual è il vero motore degli Stati Uniti in termini di identità, di cultura, di innovazione, ma anche di voto? Sentite cosa dice la politologa. Sicuramente le coste, quindi la costa orientale dove c'è appunto New York, la costa occidentale dove c'è Los Angeles, però per il sistema di voto americano le coste da sole non bastano. Hillary Clinton nel 2016 prese 2.500.000 voti in più rispetto a Trump, ma per il modo in cui il sistema americano è strutturato di voto, dico, gli stati piccoli e gli stati in bilico, quelli che sono gli stati viola, né blu né rossi, che cambiano, dove c'è sempre un'alternanza, quegli stati votano tantissimo. E inoltre i grandi elettori sono suddivisi tra i vari stati in modo da favorire quelli piccoli, altrimenti ci sarebbe un po' la tirannia degli stati grandi rispetto ai piccoli. Quindi dal punto di vista dell'innovazione, delle idee, dell'apertura, certamente le coste vogliono guidare, però dal punto di vista poi del sistema elettorale gli stati piccoli sono ancora molto importanti. E infatti fra una settimana ci sono le primarie democratiche in uno stato piccolissimo di cui ci si ricorda soltanto quando ci sono le elezioni, che si chiama l'Iowa, uno stato che ha pochi grandi elettori, però è uno stato anzitutto in bilico, e poiché le primarie, ma anche le presidenziali, iniziano sempre in Iowa, è uno stato che in qualche modo detta un po' il percorso successivo, quindi statisticamente chi vince in Iowa poi vince la Casa Bianca. Riccardo Barlam, dove ti trovi in questo momento? In quale zona? Sono a New York, a poca distanza da Wall Street, e mi sto preparando per seguire da qui la notte elettorale, dove ci sarà questo primo risultato sulle primarie democratiche. Sì. Si sta profilando, ci sono dai 30 che erano, sono rimasti in 11, e di questi 11 sono 4-5 candidati. Più probabili che domani mattina si saprà insomma chi ha vinto il primo giro delle primarie. Questo nell'Iowa è importante perché per due motivi: non è proprio vero che sempre da qui esce il candidato, quest'anno tanto di più perché Michael Bloomberg, che è uno dei candidati, hai ricordato tu, che entra nella corsa democratica. E sì, lui non è nel giro adesso, ma entrerà a marzo, quando ci sarà il primo super martedì, dove ci saranno 16 stati dove si vota. Ecco perché, Riccardo, perdonami, ti interrompo, perché non è entrato nel giro di questa, io la raccontavo come una liturgia d'altri tempi, no? Quella in Iowa, per cui si fa il porta a porta e poi ci si riunisce in credo 1600 punti addirittura in tutta la città per farsi, come dire, approvare da una stanza che poi si divide a destra e a sinistra a seconda dei vari candidati, no? Molto fisica. È molto interessante perché le primarie si fanno in 50 stati e in alcuni stati si vota, come si fa da noi, in altri, come questi di stasera, sono i caucus, che sono delle assemblee che si fanno nelle palestre, alla parrocchia, in case private, dove la cosa funziona così: ci sono i quattro principali candidati hanno un rappresentante, quindi tutti quelli che sostengono uno o l'altro candidato vanno nel gruppo di uno o l'altro candidato. Poi chi non raggiunge il 15%, quindi se un gruppetto ha solo 4-5 persone, per capirci, allora comincia una specie di gara per convincere i gruppi minoritari a unirsi agli altri. Quindi dice, ma se venite da me, e quindi alla fine quello che viene fuori alla fine è il vincitore di questo stato, uno stato bianco, rurale, uno stato repubblicano. Quindi conta e non conta sulla corsa finale, ma conta in termini di visibilità mediatica, perché il primo stato è quello che ha più attenzione. Domani tutti parleranno di chi vince nell'Iowa, e poi anche in termini di finanziamenti, perché chi vince lì c'è una finestra sulle donazioni che è più insomma, che può essere decisiva. Bloomberg non si è candidato qui, non si è messo nella corsa qui, perché lui aspetta di capire se il candidato moderato, che è Joe Biden, come sembra sia in calo di consensi. Biden era al sopra il 30%, la scorsa settimana è stato superato per la prima volta nei sondaggi. Ricordo, Biden è ex vicepresidente di Obama per due mandati, e poi negli ultimi mesi è stato candidato moderato dell'establishment, è stato un pochino bersagliato dall'inchiesta dell'Ukraine Gate, questo caso che che ha portato all'impeachment, al voto di impeachment di Trump, che ci sarà senza nessun esito, ma ci sarà al Senato mercoledì prossimo, per appunto questi legami di questo figlio Hunter Biden, uno dei suoi figli che ha avuto dei contratti con una lucrosi, con una società ucraina, e appunto il sospetto che questo sia anche un po' derivato dalla sua attività politica quando era il vice di Obama. Sì. Vi ricordate la guerra tra Ucraina e Russia? Lui era quello che mediava tra gli americani. Sì. E insomma, questa cosa qui non ha giovato Biden. Sì. Il suo gradimento è sceso dal 30 al 20, adesso lo ha superato Bernie Sanders, che è il candidato, diciamo, della sinistra radicale, delle donne, dei ragazzi, è quello che rischia di vincere, probabilmente vincerà questo turno nell'Iowa. Ah, quindi hai già fatto un pronostico, Riccardo? Diciamo, e me lo fai così, en passant, scusa, era l'ultima domanda. Sono Sanders e Biden, e l'emergente è questo, dal cognome impronunciabile, Pete Buttigieg, che è quello carino, che è quello che è giovane, che è gay, sposato, ex Harvard, ex sindaco di una città che nei suoi due mandati ha avuto uno sviluppo incredibile, ex reduce di guerra, insomma è quello che piace, e quindi sta emergendo questa terza figura. Bloomberg non è entrato perché ha detto: io vediamo come va a finire Biden, perché se Biden dovesse vincere nei due dei quattro stati che ci sono a febbraio, dopo l'Iowa ce ne saranno altri, io mi faccio da parte e comunque spenderò un miliardo dei miei soldi per sostenere la battaglia dei democratici contro Trump. Sì, comunque vada, insomma, è disposto a versare sangue in senso metaforico, nel suo caso vuol dire aprire i cordoni della borsa, e lì, insomma, c'è capienza, c'è disponibilità, armi belle affilate. Riccardo, stai con noi, andiamo a sentire la viabilità, poi ti faccio l'ultima domanda. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano abbiamo fatto un viaggio bello lungo e siamo partiti dalla Cina, alla crisi del coronavirus, per andare a analizzare come l'amministrazione statunitense la stia utilizzando come nuova formidabile arma. Dopo aver messo in stand-by la guerra dei dazi, si è trovata una nuova arma appunto per mostrare ai vicini cinesi l'inaffidabilità di Pechino. E poi, quasi avessimo preso lo stesso aereo di Mike Pompeo, siamo tornati negli Stati Uniti perché tra poche ore si celebra in Iowa quello che è un primo appuntamento elettorale che ci darà il polso e il termometro di quello che sta accadendo. Il vostro termometro, 349-238-6666, con il Super Bowl inizia la miliardaria campagna elettorale tra Trump e Bloomberg, questi saranno i duellanti finali, dice così un ascoltatore che poi aggiunge: l'Iowa ha un po' la funzione predittiva della marmora della Pennsylvania, così un po' anche sarcastico, ma ci piace sarcasmo. Con tutto il rispetto per Biden, come fanno i democratici a pensare che possa mobilitare le masse, sarebbe come spararsi su un piede. Qua dal sarcasmo andiamo invece proprio a immagini particolarmente plastiche. Qualcuno dice un pochino bersagliato, diciamo pure che politicamente è un morto che cammina, e fa riferimento a Joe Biden. Riccardo Barlam, c'è un aspetto che è interessante, al di là di alcuni giovani che si affacciano sul lagone politico statunitense. Insomma, non è che si brilli per un uovo che avanza dal punto di vista anagrafico. Che cosa ci dice della società americana questo aspetto? Non c'è una voglia di rinnovamento, non c'è una voglia... Sono tutti ultra settantenni. Allora, la ricercatrice, la professoressa che abbiamo ascoltato prima, diceva giustamente che gli Stati Uniti sono come un enorme panino in cui ci sono le due coste che vanno in una direzione, che sono quelle che le più produttive, e l'interno che è l'hamburger, diciamo. L'interno è tutto diverso, diciamo. Sì. E pensate... Gli americani che hanno un passaporto valido sono appena il 37%, vale a dire gli americani stanno bene nel loro brodo e si sentono al centro del mondo, quindi quelli veramente aperti, quelli che sono curiosi, che viaggiano, sono una minoranza. Sì. L'America profonda è quella che è al centro degli Stati Uniti e quindi è quella che... alla fine peserà di più nella scelta del prossimo presidente. Detto questo, è vero, perché Bernie Sanders ha 78 anni e di certo non è giovane, e pochi mesi fa ha avuto un problema di cuore, lui viene, è stato in qualche modo preso, adottato da tutti i trentenni. Diciamo, io ho ascoltato un suo comizio, per gli americani è visto come, per certi americani, quindi l'establishment moderato dei due partiti, è visto come il fumo negli occhi, insomma fa un po' paura, perché ha delle idee, loro lo definiscono socialista, pericoloso socialista. In realtà sentirlo parlare, per un europeo, lui dice delle cose che sono un po' da socialdemocratico di paese, di un paese scandinavo. Eh beh, sì, lui sottolinea, no, le grandi disparità pubblica, economiche, esatto, medicine per tutti, per noi è una cosa normale, cancellazione del debito per gli studenti andando a tassare Wall Street. Insomma, è decisamente un uomo politico di sinistra, e questa cosa, tu dici, magari qualche anziano conservatore nel profondo countryside statunitense un po' potrebbe, come dire, spaventare questo approccio. Dai tempi di Hillary Clinton, perché già all'epoca in cui alla fine il partito decise la nomination a Hillary Clinton, che è quella meno popolare, che non piace, che è antipatica, che è vista come appunto espressione del potere, da allora Sanders c'ha questa sindrome della vittima, io la vittima che avrebbe dovuto vincere già quel giro lì, e in questo momento è stato un po' adottato da tutti i millennial, tutti i ragazzi, e dal movimento Me Too, dalle donne che fanno capo un po' a questa deputata ispanica che è qui al Bronx, Alexandria Cortez. Sì. E quindi ha un grandissimo seguito popolare, tant'è che lui è quello che ha raccolto più in questi mesi a suon di $3 a testa, è riuscito a raccogliere più di 100 milioni di dollari di finanziamenti. A partire dal fatto che lui non è ricco come Bloomberg o come Trump, quindi certo, è tantissimo, se pensate che gli altri sono indietro di 70 a 70 a 80 milioni di dollari, certo. E quindi l'America si potrebbe dire che sta scegliendo i due estremi in questo senso, perché Trump da un lato, e dall'altro estremo è proprio un paese, a me appare, ma molto polarizzato come mai prima, in cui i moderati fanno fatica, e quindi c'è da aspettarsi per domani mattina, per i mercati finanziari, se dovesse davvero vincere Sanders, un rimbalzo in negativo, perché appunto Wall Street è spaventata la prospettiva che possa essere il candidato dei democratici, ma certo, i millennial soffrono Bloomberg, perché lo vedono come un miliardario, pur essendo stato un ottimo sindaco di New York, già repubblicano, poi indipendente, adesso democratico, insomma è un ricco buono, diciamo, in qualche modo. Sì. Grazie mille Riccardo, siamo quasi in chiusura, ci sentiremo ben presto, mancano poche ore, insomma il verdetto sta per arrivare. Riccardo Barlam, corrispondente da New York per Sole 24 Ore, buona giornata e buon lavoro Riccardo, alla prossima. A voi. 349-238-6666 per i vostri commenti. Ho qualche minuto, finalmente posso darvi voce come meritate. Vi sembrerà incredibile, ma sì, gli americani del nord sono assolutamente consapevoli che il socialismo non ha mai funzionato e mai funzionerà. Così un ascoltatore, bella l'immagine del panino, infatti la cipolla ha eletto Trump e il resto del mondo deve ancora digerirlo. E un altro ascoltatore ancora, e se anche il virus fosse una strategia americana, no, per favore, però, gentile ascoltatore, non mi tiri fuori in ballo il complotto della CIA nello strano laboratorio di Wuhan. Sicuramente è una questione di opportunità, e la grande politica internazionale sa cogliere le opportunità. C'è una fragilità? Beh, io la utilizzo verso il nemico. Signori, grazie per i ragazzi, notevole questo complimento, lo accetto volentieri. Sanders forse si riferiva alla mia redazione in realtà. Ha 78 anni, ha avuto da poco un intervento al cuore, il presidente USA non dovrebbe essere più giovane in forze, lo mette tra virgolette, ma questo assolutamente è un tema, lo abbiamo sottolineato prima. E ancora un altro ascoltatore, ma i democratici hanno rinunciato nel candidare una donna contro Trump, forse l'esperienza con la Clinton fa temere che contro un toro aggressivo e ricco ne serva uno con lo stesso stile. Così un altro ascoltatore. Allora, ho ancora due minuti, fatemi tornare sui commenti interessanti, perché ho visto la Libia accende sempre, come dire, il vostro interesse. Prima però rispondo a un ascoltatore che dice: se parliamo di coronavirus dovete dire anche quanti sono i dimessi sani, 435 guarigioni, se non erro, me li aveva segnalati Antonio Talia poc'anzi, l'ascoltatore ci invitava ad andare sul sito della John Hopkins dell'Università a Roma. Mentre più di un ascoltatore dice che è finito il tempo della diplomazia in Libia e quello che dovrebbe fare l'Italia è mettere i boots on the ground, come dicono gli analisti strategici militari, in buona sostanza, come dire, mettere la quinta e fare e guidare un intervento. Era nell'ipotesi, attenzione, l'abbiamo spesso solleticato, non so come dire, alluso a questa cosa. Però il governo italiano ha sempre detto che ci voleva un cappello che non fosse europeo o che non fosse appunto NATO o addirittura Nazioni Unite. Vedremo come andrà a finire questo 5+5, che dal punto di vista della procedura era preventivato dalla conferenza di Berlino. Detto ciò, ripeto, il nostro moderato pessimismo sulla cosa non cambia di troppo. 349-238-6666, gli ultimi minuti, e vado ancora, c'è qualcuno che ride, l'ascoltatore di prima, ma no, questa cosa è il complotto sul virus, francamente, benché qualche collega si sia lanciato senza portare le prove in tesi piuttosto ardite, mettiamola così. Torniamo invece ai candidati democratici, ma anche repubblicani: Trump, Bloomberg, Sanders, 73, 77, 78 anni, nuovo che avanza, così Maurizio, che cerca di puntare il dito e sottolineare un problema anagrafico che c'è a tutti gli effetti, perché non c'è dubbio che l'anagrafe proprio dei candidati presidenti, poi immaginate queste campagne estenuanti, questi discorsi, questo stringere le mani, questo muoversi da uno stato all'altro, che è un impegno non soltanto economico ma anche evidentemente fisico, possa impattare insomma su persone che non hanno la freschezza magari di alcuni giovani candidati come questo Pete Buttigieg. Infatti Riccardo sottolineava che era quasi impronunciabile. Se il primo è a quanto pare unico sistema per selezionare la classe politica in America, visto che è una repubblica presidenziale e questa cosa conta più del Parlamento, poi so che le leggi decidono quest'ultimo e che ogni Stato, essendo una federazione, si taglia fuori tutti coloro che non possano accedere a finanziamenti consistenti. Credo aver intuito il messaggio sostanzialmente. Come dire, additava al sistema americano elettorale, che sicuramente ha dei problemi, delle nevralgie, il fatto che i candidati più ricchi evidentemente hanno una marcia in più. Le campagne costano tantissimo, vi abbiamo fatto sentire due spot, da una parte Bloomberg, da una parte Donald Trump, entrambi miliardari, entrambi imprenditori di successo, che sono riusciti a, come dire, infilarsi in un segmento pubblicitario. Attenzione, stiamo parlando dell'evento sportivo più seguito al mondo, fatto salvo il sottoscritto appunto che alla palla ovale lanciata in avanti preferisce quella lanciata indietro, e quindi il rugby. Detto ciò, l'investimento è veramente altissimo. Gli ultimissimi messaggi. I miei cugini americani, così un ascoltatore o ascoltatrice mi perdonerà, raccontano tutta un'altra storia, cioè we love Trump, ma qua nessuno sta mettendo in discussione l'abilità del presidente Trump, dalla sua a dei fondamentali economici che stanno andando bene, tantissime cose è riuscita a mantenerle, altre non è andata benissimo. E negli ultime settimane, negli ultimi mesi, chi ci segue lo sa che abbiamo anche analizzato, come dire, una certa irritazione da parte dei media, no? Rispetto all'uscita di Donald Trump, facendo con alcuni analisti un jacuzzi al sistema mediatico che evidentemente in parte non ha capito le uscite del presidente Trump. Detto ciò, è giusto anche andare a raccontare il fronte democratico, che è assolutamente in crisi a mio modestissimo avviso, e non ha un uomo che potrebbe rubare la scena a Donald Trump. Dalla sua il presidente, con le ultime visite, le ultime mosse di politica estera, ha decisamente catturato l'attenzione internazionale, andando a, come dire, bilanciare quello che è una politica estera che sta andando a ripercorrere, questo è inutile dirlo, un inizio di ritiro dai principali quadranti che era già stato iniziato dal presidente Obama. Valeria Bernardi mi sussurra che è tempo di lanciare i titoli di coda. Con i quali saluto tutti voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.